10. L'epoca dello sfacelo. Non posso parlarne, ma cercherò di scriverlo. Sono passati 25 anni e per molto tempo ho avuto un continuo dolore. Credevo che non sarei mai riuscito a consolarmi. Ma ora, vicino ai 90 anni, capisco quello che lei aveva voluto dire quando ci aveva assicurato che non avrebbe avuto difficoltà a comunicare con noi, perché aveva molta pratica in queste cose. Prima io giravo come smarrito cercandola dappertutto. Ogni notte andando a letto immaginavo che stesse con me, così com'era quando aveva tutti i suoi denti e mi amava. Spegnevo la luce, chiudevo gli occhi e nel silenzio della mia camera cercavo di vederla, la chiamavo da sveglio e dicono che la chiamassi anche da addormentato. La notte che morì, mi chiusi dentro con lei. Dopo tanti anni senza parlarci, dividemmo quelle ultime ore riposando nell'acqua quieta della seta azzurra, come le piaceva chiamare il suo letto, e ne approfittai per dirle tutto quello che non avevo potuto dirle prima, tutto quello che mi ero trattenuto dal dirle dopo la terribile notte in cui l'avevo picchiata. Le tolsi la camicia da notte e la scrutai con attenzione, cercando qualche traccia di malattia che potesse giustificare la sua morte, e non trovandola, seppi che aveva semplicemente terminato la sua missione su questa terra ed era volata in un'altra dimensione dove il suo spirito, finalmente libero dalla zavorra materiale, si trovava più a suo agio. Non c'era alcuna deformità né altra cosa terribile nella sua morte. La scrutai a lungo perché da molti anni non avevo occasione di osservarla a mio agio e durante quel tempo mia moglie era cambiata, come succede a tutti e a tutte col passare degli anni. Mi sembrò bella come sempre. Era dimagrita e credetti che fosse cresciuta, che fosse più alta, ma poi compresi che era un effetto illusorio prodotto dal mio stesso rattrappimento. Prima mi sentivo come un gigante al suo fianco. Ma stendendomi accanto a lei nel letto, notai che eravamo quasi della stessa statura. Aveva il suo cespuglio di capelli ricci e ribelli che mi avevano affascinato quando ci eravamo sposati, raddolciti da alcune ciocche bianche che illuminavano il suo volto addormentato. Era molto pallida, con ombre intorno agli occhi, e notai per la prima volta che aveva certe piccole rughe molto sottili ai lati delle labbra e sulla fronte. Sembrava una bambina. Era fredda, ma era la donna dolce di sempre e potei parlarle tranquillamente, accarezzarla, dormire un momento quando il sonno vinse il dolore, senza che il fatto irrimediabile della sua morte alterasse il nostro incontro. Finalmente ci eravamo riconciliati. All'alba cominciai a rassettarla finché tutti la vedessero con un bell'aspetto. Le misi una tunica bianca che c'era nel suo armadio e mi meravigliai che avesse così pochi indumenti perché mi ero fatto l'idea che fosse una donna elegante. Trovai un paio di calzerotti di lana e glieli infilai perché non le si gelassero i piedi, perché era molto freddolosa. Poi le spazzolai i capelli con l'intenzione di annodarle la crocchia che portava, ma mentre passavo la spazzola i suoi ricci si ingarbugliarono formando una cornice intorno al suo volto e mi sembrò che così fosse più bella. Cercai i suoi gioielli per mettergliene qualcuno, ma non riuscii a trovarli, sicché mi rassegnai a togliermi la fede matrimoniale che portavo dal nostro fidanzamento e a mettergliela al dito per sostituire quella che si era tolta quando aveva rotto con me. Sistemai i guanciali, lisciai il letto, le misi qualche goccia d'acqua di colonia sul collo e poi aprii la finestra per far entrare il mattino. Una volta finito tutto questo, aprii l'uscio e permisi che i miei figli e mia nipote si accomiatassero da lei. Trovarono Clara sorridente, pulita e bella come era stata sempre. Io mi ero rimpicciolito di 10 centimetri, i piedi mi sguazzavano nelle scarpe e avevo i capelli definitivamente bianchi, ma ormai non piangevo più. «Potete seppellirla», dissi. Approfittate per seppellire anche la testa di mia suocera, che deve essere in qualche angolo della cantina da molto tempo, aggiunsi e uscii strascicando i piedi per non perdere le scarpe. Così la mia nipotina venne a sapere che quanto stava nella cappelliera di pelle di porco e che le era servito per giocare alle messe nere e per addobbare i suoi rifugi era la testa della sua bisnonna Nivea, che era rimasta a lungo senza sepoltura. dapprima per evitare lo scandalo e poi perché nel disordine di questa casa ce ne eravamo dimenticati. Lo facemmo con la maggior segretezza per non far parlare la gente. Dopo che gli inservienti delle pompe funebri ebbero terminato di sistemare Clara nella sua bara e di adibire il salotto a cappella mortuaria con tendaggi e crespi neri, ceri gocciolanti e un altare improvvisato sul pianoforte, Jaime e Nicolás misero nella cassa la testa della nonna, che ormai era solo un giocattolo giallo dall'espressione impaurita, affinché riposasse accanto alla sua figlia preferita. Il funerale di Clara fu un evento. Nemmeno io riuscii a spiegarmi da dove fosse uscita tanta gente addolorata per la morte di mia moglie. Non sapevo che conoscesse tutti. Sfilarono processioni interminabili che mi stringevano la mano. Una coda di automobili sbarrò tutti gli accessi al cimitero e accorsero alcune strane delegazioni di poveri, di scolari, di sindacati operai, di monache, di bambini down, di vagabondi e di spiritisti. Quasi tutti i mezzadri delle Tre Marie avevano fatto il viaggio, alcuni per la prima volta nella loro vita, su camion e in treno, per porgerle l'ultimo saluto. Tra la folla vidi Pedro II Garcia, che non avevo più rivisto in tutti quegli anni. Mi avvicinai per salutarlo, ma non rispose al mio cenno. Si avvicinò a testa china alla fossa aperta e gettò sulla bara di Clara un mazzo di avvizziti fiori silvestri che avevano l'aria di essere stati rubati in un giardino altrui. Stava piangendo. Alba, che mi dava la mano, assistette alla cerimonia funebre. Vide la bara calare nella terra, nel posto provvisorio che avevamo ottenuto. Ascoltò gli interminabili discorsi che esaltavano le uniche virtù che sua nonna non aveva avuto e quando tornò a casa corse a chiudersi in cantina ad aspettare che lo spirito di Clara si mettesse in contatto con lei proprio come le aveva promesso. Lì la trovai che sorrideva addormentata sulla spoglia tarmata di Barrabás. Quella notte non riuscii a dormire. Nella mia mente si confondevano i due amori della mia vita, Rosa, quella dai capelli verdi, e Clara, chiaroveggente, le due sorelle che avevo amato tanto. Al mattino decisi che se non le avevo avute in vita mi avrebbero almeno fatto compagnia nella morte, sicché tirai fuori dalla scrivania dei fogli di carta e mi misi a disegnare il mausoleo più bello e lussuoso di marmo italiano color salmone, con statue dello stesso materiale che rappresentassero Rosa e Clara con ali d'angelo, perché angeli erano state e angeli continuavano ad essere. Lì, fra di loro, un giorno sarei stato anch'io rinchiuso. Desideravo morire il più presto possibile, perché la vita senza mia moglie non aveva senso per me. Non sapevo di avere ancora molto da fare in questo mondo. Per fortuna Clara è tornata, o forse non se n'era mai andata del tutto. Talvolta penso che la vecchiaia mi abbia confuso il cervello e che non si può ignorare che l'ho sepolta 20 anni fa. Ho il sospetto di avere delle visioni, come un vecchio matto, ma quei dubbi svaniscono quando me la vedo passare accanto e sento la sua risata sulla terrazza. So che mi fa compagnia, che mi ha perdonato tutte le violenze passate e che mi è più vicina di quanto non lo sia mai stata prima. È sempre viva e sta con me, Clara, chiarissima. La morte di Clara trasformò completamente la vita nella grande casa dell'angolo. I tempi erano mutati, con lei se n'erano andati gli spiriti, gli ospiti e quella luminosa allegria che era sempre presente, perché lei non credeva che il mondo fosse una valle di lacrime, ma al contrario una burla di Dio, sicché era stupido prenderlo sul serio se lui stesso non lo faceva. Alba notò il deterioramento sin dai primi giorni, lo vide avanzare lento ma inesorabile, lo percepì prima di tutto dai fiori che marcivano nei vasi, impregnando l'aria di un odore dolciastro e nauseabondo, e lì rimasero sino a diventare secchi. Persero le foglie, caddero e sopravvisse solo qualche gambo triste che nessuno tolse fino a molto tempo dopo. Alba non tagliò più fiori per rabbellire la casa. Poi morirono le piante perché nessuno si ricordava di innaffiarle né di parlar loro come faceva Clara. I gatti se ne andarono in silenzio, così come erano arrivati o erano nati negli interstizi del tetto. Esteban Trueba si vestì di nero e passò in una notte dalla sua vigorosa maturità di uomo pieno di salute a un'incipiente vecchiaia striminzita e balbettante che non ebbe tuttavia il potere di quietargli l'ira. Portò il suo lutto stretto per il resto della vita, anche quando la cosa era passata di moda e nessuno vi badava più, tranne i poveri che si legavano una fascia nera sulla manica in segno di dolore. Si appese al collo un sacchettino di camoscio attaccato a una catena d'oro, sotto la camicia, sopra il petto. Erano i denti posticci di sua moglie, che per lui avevano significato di buona fortuna e di espiazione. Tutti in famiglia sentirono che senza Clara avevano perso la ragione di stare insieme, non avevano quasi nulla da dirsi. Trueba si rese conto che l'unica cosa a trattenerlo in casa era la presenza di sua nipote. Col passare degli anni la casa si trasformò in una rovina. Nessuno si occupò più del giardino, di annaffiarlo, di pulirlo, finché non sembrò ingoiato dall'oblio, dagli uccelli e dalla malerba. Quel parco geometrico che Trueba aveva fatto costruire sui disegni dei giardini dei palazzi francesi e la zona incantata dove regnava Clara nel disordine e nell'abbondanza, nella lussuria dei fiori e nel caos dei filodendri, cominciarono a seccarsi, a marcire, a inselvatichirsi. Le statue cieche e le fontane canterine si coprirono di foglie secche, di escrementi di uccelli e di muschio. Le pergole, rotte e sudice, si trasformarono in un rifugio per gli insetti e in un immondezzaio per i vicini. Il parco divenne una fitta boscaglia da villaggio abbandonato, dove non si poteva passare senza doversi aprire il cammino a colpi di roncola. Il bosso, che prima veniva potato con pretese barocche, finì tristemente contratto e tormentato dalle lumache e dai parassiti. Nelle sale, a poco le tende si staccarono dai loro ganci e rimasero ciondolanti come sottovesti di vecchie, polverose stinte. I mobili calpestati da Alba, che vi giocava per costruirsi rifugi e trincee, si trasformarono in cadaveri con le gambe all'aria, e il grande arazzo del salotto perse la sua bellissima alterigia di scena bucolica alla Versailles e venne usato come bersaglio delle frecce di Nicolas e di sua nipote. La cucina si coprì di unto e di fuliggine, si riempì di vasi vuoti e di pile di giornali e smise di produrre le grandi terrine di marmellata, di latte e gli stufati profumati di un tempo. Gli abitanti della casa si rassegnarono a mangiare ceci, riso e latte quasi ogni giorno, perché nessuno osava affrontare la sequela di cuoche piene di verruche adirate e dispotiche che regnarono a turno tra le casseruole annerite dal cattivo uso. I terremoti, gli sbatacchi e il bastone di Esteban Trueba aprirono crepe nei muri, escheggiarono le porte, le persiane si sganciarono dai cardini e nessuno prese l'iniziativa di ripararle. Cominciarono a rompersi e a gocciolare i rubinetti, i tubi dell'acqua a perdere, le tegole a sgretolarsi, macchie verdastre ad apparire sui muri. Solo la stanza tappezzata d'azzurro di Clara si mantenne intatta. Dentro rimasero i mobili di legno chiaro, due vestiti di cotone bianco, la gabbia vuota del canarino, il cesto con i lavori a maglie incompiuti e le sue carte magiche, il tavolino a tre gambe e la pila di quaderni in cui aveva annotato la vita per 50 anni e che molto tempo dopo, nella solitudine della casa vuota e nel silenzio dei morti e degli scomparsi, io riordinai e lessi con raccoglimento per ricostruire questa storia. Jaime e Nicolas persero lo scarso interesse che nutrivano per la famiglia e non ebbero compassione per il padre che nella sua solitudine aveva cercato inutilmente di instaurare con loro un'amicizia che colmasse il vuoto lasciato da una vita di cattivi rapporti. Abitavano in casa perché non avevano un posto più comodo dove mangiare e dormire, ma passavano come ombre indifferenti, senza soffermarsi a guardare lo sfacelo. Jaime esercitava la sua professione ispirato come un apostolo e con la stessa tenacia con cui suo padre aveva sottratto all'abbandono le Tre Marie e aveva accumulato una fortuna, logorava le sue forze lavorando all'ospedale e curando i poveri gratuitamente durante le ore libere. «Ehi, un perdente senza scampo, figliolo. sospirava Esteban Trueba. Non hai il senso della realtà, non si è ancora reso conto di come è fatto il mondo, punta su valori utopici che non esistono. Aiutare il prossimo è un valore che esiste, papà. No, la carità, come il suo socialismo, è un'invenzione dei deboli per piegare e utilizzare i forti. Non credo nella sua teoria dei forti e dei deboli, replicava Jaime. Ah, in natura è sempre così, viviamo nella giungla. Sì, perché quelli che stabiliscono le regole la pensano come lei, ma non sarà sempre così. O sarà, lo sarà perché siamo dei trionfatori, sappiamo sbrigarcela nel mondo ed esercitare il potere. Mi dia retta, figliolo, rinsavisca e metta su una clinica privata, io l'aiuterò, ma la finisca con le sue stravaganze socialiste, predicava Esteban Trueba senza alcun risultato. Dopo la scomparsa di Amanda dalla sua vita, Nicolás sembrò essersi stabilizzato emozionalmente. Le sue esperienze in India gli avevano lasciato il gusto delle imprese spirituali. Aveva abbandonato le sue fantasiose avventure commerciali che gli avevano sconvolto l'immaginazione durante i primi anni della sua giovinezza, così come il desiderio di possedere tutte le donne che gli passavano davanti. E si era consacrato all'ansia che aveva sempre avuto di trovare Dio seguendo strade meno convenzionali. Lo stesso fascino che prima aveva usato nella ricerca di alunne per il suo ballo flamenco gli servì per radunare intorno a sé un numero crescente di adepti. Erano in genere giovani annoiati di vivere bene, che giravano come lui in cerca di una filosofia che permettesse loro di esistere senza essere coinvolto dai turbamenti terreni. Si formò un gruppo desideroso di assimilare le millenarie conoscenze che Nicolás aveva acquisito in Oriente. In quel periodo si riunirono nelle stanze posteriori della parte abbandonata della casa, dove Alba distribuiva noci e serviva infusi di erbe, mentre loro meditavano con le gambe incrociate. Quando Esteban Trueba si rese conto che alle sue spalle circolavano i coetanei e gli eponimi, intenti a respirare con l'ombelico e a togliersi i vestiti al minimo invito, perse la pazienza e li cacciò via, minacciandoli col bastone e con la polizia. Allora Nicolás capì che senza denaro non poteva continuare a insegnare la verità, sicché cominciò a farsi pagare modesti onorari per i suoi insegnamenti. Grazie a questi riuscì ad affittare una casa dove installò la sua accademia di illuminati. Per esigenze legali e per la necessità di avere un nome giuridico, la chiamò Istituto di Unione col Nulla, IDUN. Ma suo padre non era disposto a lasciarlo in pace perché i seguaci di Nicolás cominciarono a comparire fotografati sui giornali, con la testa rasata, con perizoma indecenti e un'espressione beata, mettendo in ridicolo il nome dei Trueba. Non appena si seppe che il profeta dell'Idun era figlio del senatore Trueba, l'opposizione sfruttò la cosa per metterlo in ridicolo, usando la ricerca spirituale del figlio come un'arma politica contro il padre. Trueba sopportò stoicamente fino al giorno in cui vide sua nipote Alba con la testa rapata, come una palla da biliardo, che ripeteva instancabilmente la parola sacra Om. Ebbe uno dei più terribili accessi d'ira. Entrò d'improvviso nell'istituto di suo figlio insieme a due bravacci assunti a tal fine che distrussero a pugni lo scarso mobilio e per poco non fecero lo stesso con i pacifici coetanei, finché il vecchio, comprendendo che una volta ancora aveva passato la misura, non ordinò loro di interrompere lo scempio e di aspettarlo fuori. Da solo, con suo figlio, riuscì a dominare il tremito furibondo che si era impossessato di lui per masticargli con voce trattenuta che era ormai stufo delle sue buffonate. Non voglio rivederla più finché non saranno ricresciuti i capelli a mia nipote, aggiunse prima di andarsene con un ultimo sbatacchio di porta. Il giorno dopo Nicolás reagì. Dapprima sbarazzò i rottami che avevano lasciato i bravacci di suo padre, ripulì il locale, mentre respirava ritmicamente per eliminare dal suo intimo ogni traccia di collera e purificare il suo spirito. Poi, con i suoi discepoli coperti dai loro perizomi e reggendo cartelloni sui quali esigevano libertà di culto e rispetto per i loro diritti di cittadini, marciarono fino alle cancellate del congresso. Lì estrassero fischietti di legno, campanelli e piccoli gonghi improvvisati, con i quali fecero una gazzarra che bloccò il traffico. Quando si fu riunito un pubblico sufficiente, Nicolás cominciò a togliersi tutti gli indumenti, e nudo come un neonato si sdraiò in mezzo alla strada con le braccia aperte in croce. Ci fu una tale confusione di frenate, clacson, strilli e fischi che l'allarme raggiunse l'interno dell'edificio. Nel Senato fu interrotta la seduta in cui si discuteva il diritto dei proprietari terrieri di recingere con filo spinato le strade vicinali e i congressisti uscirono sul balcone a godersi l'inusitato spettacolo del figlio del senatore Trueba che cantava salmi asiatici completamente nudo. Esteban Trueba scese di corsa per le ampie scalinate del congresso e si scagliò in strada pronto ad ammazzare suo figlio, ma non riuscì ad attraversare l'inferriata perché sentì che il cuore gli esplodeva in petto e un velo rosso gli annebbiava la vista. Cadde a terra. Nicolas se lo portò via, il furgone dei carabinieri. E la Croce Rossa si portò via su un'ambulanza il senatore Trueba. Il malore di Trueba durò 3 settimane e per poco non lo spedì all'altro mondo. Quando riuscì a scendere dal letto, afferrò suo figlio Nicolás per il collo, lo cacciò su un aereo e lo mandò all'estero con l'ordine di non ricomparirgli davanti agli occhi per il resto della sua vita. Gli diede tuttavia abbastanza denaro perché potesse sistemarsi e sopravvivere a lungo, dato che, come aveva spiegato a Jaime, questo era l'unico modo per evitargli di fare altre follie che potessero minare il suo prestigio anche all'estero. Negli anni successivi, Esteban Trueba veniva informato sulla pecora nera della famiglia attraverso la sporadica corrispondenza che Blanca intratteneva con lui. Venne così a sapere che Nicolas aveva formato in Nord America un'altra accademia per unirsi al nulla, con tale successo da raggiungere la ricchezza che non aveva ottenuto sollevandosi in pallone o confezionando tramezzini. Faceva lavacri insieme ai suoi discepoli in una piscina personale di porcellana rosa, tra il rispetto della cittadinanza, combinando, senza esserselo proposto, la ricerca di Dio con la buona fortuna negli affari. Esteban Trueba, naturalmente, non vi credette mai. Il senatore aspettò che i capelli di sua nipote crescessero un po' perché non si pensasse che aveva la rogna e andò di persona a iscriverla in un collegio inglese per signorine perché continuava a credere che quella fosse la migliore educazione, nonostante i risultati contraddittori che aveva ottenuto con i suoi due figli. Blanca si era mostrata d'accordo perché aveva capito che non era sufficiente una buona congiunzione di pianeti nella sua carta astrale perché Alba riuscisse nella vita. Al collegio Alba imparò a mangiare verdure bollite e riso tostato, a sopportare il freddo del cortile, a cantare inni e a rinunciare a tutte le vanità del mondo tranne quelle di genere sportivo. Le insegnarono a leggere la Bibbia, a giocare a tennis e a scrivere a macchina. Quest'ultima fu l'unica cosa utile che le lasciarono quei lunghi anni in terra straniera. Per Alba, che aveva vissuto fino ad allora senza aver sentito parlare di peccato né di buone maniere da signorina, ignorando il limite tra l'umano e il divino, il possibile e l'impossibile, vedendo passare per i corridoi uno zio nudo che faceva esercizi di karate e un altro sepolto sotto una montagna di libri. Suo nonno che distruggeva bastonati telefoni e i vasi della terrazza, sua madre che se la squagliava con la sua valigetta da pagliaccio e sua nonna che muoveva il tavolino a 3 gambe e suonava Chopin senza aprire il piano, la vita del collegio era sembrata insopportabile. Durante le lezioni si annoiava. A ricreazione si sedeva nell'angolo più lontano e discreto del cortile per non essere vista, tremando dal desiderio che la invitassero a giocare e pregando al tempo stesso che nessuno la notasse. Sua madre l'aveva avvisata di non provare a spiegare alle sue compagne quello che aveva visto sulla natura umana nei libri di medicina di suo zio Jaime e di non parlare nemmeno alle maestre dei vantaggi dell'esperanto sulla lingua inglese. Malgrado queste cautele, la direttrice del collegio non ebbe difficoltà a scoprire sin dai primi giorni le stravaganze della nuova alunna. La osservò per un paio di settimane e quando fu sicura della diagnosi, chiamò Blanca Trueba nel suo ufficio e le spiegò, nel modo più cortese possibile, che la bambina sfuggiva completamente ai limiti abituali della formazione britannica e le suggerì di metterla in un collegio di suore spagnole, dove avrebbero forse potuto dominare la sua immaginazione lunatica e correggere la sua pessima educazione. Ma il senatore Trueba non era disposto a farsi confondere da una Miss St. John qualunque e fece valere tutto il peso della sua influenza finché la nipote non venisse espulsa. Voleva ad ogni costo che imparasse l'inglese. Ero convinto della superiorità dell'inglese sullo spagnolo, che consideravo una lingua di second'ordine, adatta agli usi domestici, alla magia, alle passioni incontrollate e alle imprese utili, ma inadeguata al mondo della scienza e della tecnica in cui sperava di veder trionfare Alba. Aveva finito per accettare, vinto dalla ventata dei tempi nuovi, che talune donne non erano del tutto idiote e pensava che Alba, troppo insignificante per trovare un marito di buona posizione, avrebbe potuto imparare un mestiere e guadagnarsi la vita come un uomo. Su questo punto Blanca aveva appoggiato suo padre perché aveva sperimentato sulla sua pelle i risultati di una cattiva preparazione scolastica per affrontare la vita. Non voglio che tu sia povera come me, né che tu debba dipendere da un uomo per farti mantenere, diceva a sua figlia ogni volta che la vedeva piangere perché non voleva andare a scuola. Non la tolsero dal collegio e dovette sopportarlo per 10 anni consecutivi.